perché affogare il tuo deserto non mi va. L'idea agitata, perché no? Un via di strada nel mio safari park. Tu dici che poi mi spiegherai. Io dico sì, aspetto qui. Lo spazio amico è quello che non hai. E tiri avanti oramai. E allora? Addio l'amore colpirà. Fresco il sapore del rosso sangue al mattino, la caccia aperta, perché no? Corpi sicuri in libertà. Tu stai velando per un bacio qui. Se ti sta bene, perché no? La vita, amico, è tutta tua, ce l'hai. E gioca da come tu vuoi. Gioca da come tu vuoi. Thank you.